Il punto di Stefano Folli. Si direbbe che il rapporto con l'Europa sia il terreno meno propizio sul quale Berlusconi può dare consigli e lanciare moniti, se si pensa alle ragioni per cui nel 2011 finì il suo governo. Invece lo fa con indubbia baldanza in un'intervista al Foglio, arrivando fino a prospettare l'uscita dall'euro se Enrico Letta non dovesse vincere, niente meno, il braccio di ferro con la Merkel. Ma queste frasi non vanno prese nel merito. Nessuno ricorda scontri risolutivi fra il governo italiano e quello tedesco quando Berlusconi era a Palazzo Chigi. Nessuna memoria che egli stesse preparando l'uscita dall'euro quando era nella possibilità di farlo. Più semplicemente Berlusconi tiene vivo il fuoco sotto la cenere, pensando a questioni interne e personali. Sul piano interno vuole tenere sempre pronte le sue truppe, come un reggimento pronto ad andare in battaglia. Sostiene il governo, ma non si sa mai. Le elezioni sono sempre dietro l'angolo. E poi c'è il vero nodo: i processi aperti, la pronuncia della consulta, la Cassazione. L'Europa è insomma un pretesto, e che pretesto, per nascondere un nervosismo che ha ben altre cause.